La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti ed eccoci qui al nostro appuntamento settimanale, la nostra ora di cinema settimanale nel weekend di Radio 24. E siamo alla gran volata per Natale, perché siamo praticamente all'ultimo weekend utile per le uscite natalizie. Ci sarà il prossimo, ma sarà già Natale, sarà già Santo Stefano, saranno già giorni di alta stagione cinematografica. Allora noi abbiamo scelto per voi una manciata di film, quelli che secondo noi sono più meritevoli di essere segnalati in questa puntata, per dare il via a questo sprint, a questa volata natalizia 2010. Ma come sempre andiamo a riepilogare i contenuti di questa nostra trasmissione nei titoli di testa. Commedia grottesca e surreale, piena di spunti e divertimento. Supera la prova La bellezza del somaro. Film corale dove gli adulti sono più incerti e immaturi dei loro figli. Ne parliamo con il protagonista Sergio Castellitto. Johnny Depp e Angelina Jolie, protagonisti di The Tourist, avventurosa spy story in gran parte ambientata a Venezia. Nel cast molte facce note del cinema italiano. Una coppia sulla Trentina con un figlio in arrivo. Due nonni che non vogliono saperne di fare i nonni e partono per l'Europa. Sono gli ingredienti di American Life, commedia road movie di Sam Mendes, per capire meglio l'America di oggi. Un altro cattivo fuori e buono dentro sbarca nell'animazione in 3D. È Megamind, originale supereroe al contrario, che per amore di una bella giornalista salva la metropoli da quelli più cattivi di lui, ma il film non decolla. La mia è stata un'infanzia abbastanza normale. Presto, non c'è più tempo. I miei non vedevano l'ora che me ne andassi di casa. Sei destinato a un futuro grandioso. Una ben gravosa aspettativa per un neonato di 8 giorni. Accadde che anche un'altra famiglia del quadrante Glaupunkt ebbe la stessa idea. Fu allora che conobbi Mr. Perfettino. E nacque la nostra leggendaria rivalità. E questa è l'autopresentazione di Megamind, bambino di provenienze ultraterrestri, dotato di superpoteri, ma capitato sulla Terra nel momento sbagliato. Un supereroe magrissimo, con la testa a uovo e la pelle blu, un po' maldestro e sfigato, insomma un antieroe, però cattivo. Megamind è il nuovo prodotto degli studi di animazione della DreamWorks, la casa madre di Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Megamind poteva anche essere un buono, volendo, ma l'invidia per Metroman, l'eroe concorrente piovuto sulla Terra dal suo stesso quadrante astronomico e nel suo stesso momento, però bello, aitante e soprattutto adorato da Roxanne, la bella giornalista per la quale Megamind stravede, tutto questo crea fra i due una rivalità insanabile. I tuoi piani falliscono sempre, sei prevedibile. Tu trovi questo prevedibile? Alligatori, sì. Ci pensavo venendo qui. Boom, dritto in faccia. Infantile. Orrore! Già visto. Quello lì dietro. Ovvio. Cosa farà quest'altro? Pacchiano. Il ragno è nuovo. Ragno? Sì, il ragno. Basta un piccolo morso del Arachnis mortiferus per paralizzare all'istante. Toglimelo! Tutto cambia però quando sulla scena compare un terzo supereroe, il cameraman di Roxanne, anche lui innamorato della bella, è trasformato in pericoloso megalomane proprio da Megamind, al quale, manco a dirlo, sfugge di mano. Lui sì sarà una minaccia per la Terra, provocherà il ritorno in scena di Metroman, che nel frattempo si era ritirato a fare il cantautore su un'isola deserta, e l'alleanza con Megamind che salverà il mondo. Sceneggiatura brillante e sarcastica, nella piena tradizione DreamWorks, da commedia sofisticata, come si conviene all'animazione del nuovo millennio. Trovate a gogo citazioni cinematografiche colte, il 3D usato e non abusato. Megamind ha tutti gli ingredienti per piacere, ma gli manca qualcosa, gli manca forse un po' d'amalgama, il tema del cattivo che in realtà è buono e ormai abusato. Pensate solo, per restare in questa stagione, a Cattivissimo me, e in fondo il film lascia lo spettatore partecipe ma piuttosto freddo. Allora, noi adesso diamo un'occhiata alla classifica. Prima di dare la linea alla regia, andiamo a vedere un po' che cosa è successo al box office la scorsa settimana, lo scorso fine settimana per la precisione, con un box office ancora guidato in testa da Rapunzel, la fiaba disneyana, che oltre il 1.400.000 euro di incasso del weekend è arrivata a portarne a casa 7 milioni e mezzo globali. Poi partenza con Natale, A Natale mi sposo, così così, ma anche se c'è un incasso globale di tutto rispetto, secondo posto. Woody Allen continua molto bene per un film di Woody Allen, che come sapete ha tanti ammiratori in Europa, anche buoni incassi che non diventano quasi mai ottimi. Invece in questo caso siamo già a 3 milioni e mezzo totali in 2 settimane e mezzo di sfruttamento. E poi via via tutti gli altri. Segnaliamo che Harry Potter è arrivato a 17 milioni di incasso globale, e quindi insomma tutto sommato sta portando a casa quello che la Warner si aspettava, mentre Benvenuti al Sud è ancora in classifica, è decimo a 29.500.000. Chissà che con le vacanze di Natale quei fatidici 30 milioni non vengano raggiunti. Ti ricordi Rosina da piccola? Papo ti portava sulle spalle, eri sempre così silenziosa. A che pensavi? Mi stava da sul cazzo. Dialogo crudo ma sincero fra Marcello, un papà un po' svagato e un po' troppo amico, e Rosa, la figlia 17enne, secchiona e impegnata. Sono il motore della bellezza del somaro, il film di Sergio Castellitto, che torna alla regia di Commedia 6 anni dopo il dramma di Non ti muovere e 12 anni dopo il suo esordio con Libero Burro. La sceneggiatura è della moglie di Castellitto, Margaret Mazzantini, scrittrice di successo, coppia fissa nella vita e nel lavoro. E allora, dicevamo, una famiglia della borghesia romana, pariolini di sinistra potremmo definirli: Marcello, architetto e l'occhio brillante, un amante 25enne, Lola Ponce; Marina, Laura Morante, moglie psicologa un po' trattenuta che cerca di non vedere il poco amore che le piove addosso. Una coppia illuminata, però, politically correct, come tutto il circondario di varia umanità che si porta dietro, dalla giornalista femminista al manager in crisi di identità al cardiologo cicalone. Nel corso di un weekend nella splendida casa di campagna toscana di Marcello e Marina, fra un karaoke con le musiche dei New Trolls e una grigliata, la compagnia di giro viene sconvolta dall'arrivo di Armando, il nuovo fidanzato di Rosa. Cosa c'è di strano? I genitori si preparano all'idea che il giovane sia quel ragazzo di colore con cui l'avevano scoperta abbracciata fuori da scuola qualche giorno prima, e invece... Che cosa c'ha Armando che non va? Forza, ditelo! Ha 50 anni più di te. Scassa il cazzo da quando è nata Rosina nostra, scusa, amore. Forse le è mancata una figura guida. Certo, capapasci. Gli unici no che Rosa si è sentita dire glieli ho detti io. Tu che padre sei? Sei un coetaneo, un amichetto. Armando, Enzo Iannacci, ha 70 anni, è gentile, affidabile, è vecchio e saggio, dice sempre quello che pensa, con modi gentili. Ha superato insomma il vero tabù della nostra società performante, quello della vecchiaia, e per questo parla un linguaggio comune a quello dei giovani, il linguaggio della verità e dell'accettazione di se stessi. Armando attraverserà il weekend dei nevrotici romani come uno tsunami, e quando se ne andrà, niente e nessuno sarà più come prima. Adesso basta! Ti sospendo! La paghetta no, le serve. Va bene, confermo la paghetta allora! Ma non è che vi drogate voi due? La classe mia è piena di genitori drogati. Ah, non sapevo. È un bel film La bellezza del somaro, un film raro e prezioso per la commedia italiana, un film originale nell'impostazione, meglio la parte di campagna che quella di città, e soprattutto nei toni, quel grottesco e surreale che riporta più alle cinematografie dell'est europeo che alla tradizione nostrana. La bellezza del somaro, in mezzo a molte risate, induce a più di una riflessione sul rapporto dei cinquantenni di oggi coi propri figli e con la propria vita, il cui corso galoppante verso la vecchiaia cercano continuamente di deviare con artifici che crollano miseramente al primo barlume di verità. Alla Rosa Purpurea c'è Sergio Castellitto. Un film che dà molti spunti. Uno forse principale è l'accettarsi per quello che si è. Che detta così sembra facile, in realtà poi non è così facile accettarsi e vedere per esempio gli anni che passano, la vita che passa, vedersi trasformati in qualche modo. Sono temi serissimi che noi abbiamo deciso di trattare nell'acqua della comicità, del divertimento, dell'umorismo. Il ritratto di questa borghesia molto disponibile, molto tollerante, molto aperta al dialogo e quant'altro, che al primo inceppo, al primo problema, insomma, al primo passo dentro il proprio orticello, non è più così tollerante, non è più così disponibile in qualche misura. che è anche un po', come dire, una, forse un vezzo soprattutto di una classe e di una generazione. Una cosa è mettere in scena l'essere, no? Esatto, politically correct. Una cosa è essere, poi infatti tutto questo viene riassunto dallo schiaffone che a un certo punto arriva alla figlia, per quando ce l'ho, ce l'ho. Quando ce l'ho, ce l'ho, e soprattutto forse quello schiaffone da qualche parte te lo chiede pure tua figlia, perché in un certo senso ti chiede di riguadagnare il tuo ruolo. Non so se hanno fatto più danni i padri padroni piuttosto che i padri amici. Ecco, a proposito di padri amici, un altro elemento forte è quello di questi ragazzi, incredibilmente e forse senza la nostra consapevolezza di genitori, maturi nel senso del concepire cosa sono loro, cioè loro lo sanno e lo applicano. Forse i ragazzi lo sanno meglio di noi per certi versi, proprio perché il film cerca un po' di raccontare anche questo, cioè cerca di raccontare una generazione di cinquantenni così preoccupata di sembrare più giovane di quello che è, a fronte appunto di una generazione di adolescenti che invece sembra che non vedano l'ora di crescere, di liberarsi appunto di quei genitori amici di cui parlavamo prima, purtroppo un po' anche rinunciando e perdendo l'occasione di viversi la propria giovinezza, la propria adolescenza nel modo migliore, anche perché sono comunque anni meravigliosi e irripetibili, ecco. È molto interessante e anche molto anomala per il cinema italiano la modalità di questo divertimento che avete scelto, che è quella del grottesco e del surreale in un certo senso, no? Del paradosso. Si fa molto poco, si fa una commedia più didascalica e quant'altro, della quale bisogna avere per carità tutto il rispetto, però insomma uno fa anche quello in cui crede, no? Per cui io credo che si può raccontare una commedia in maniera un po' più anomala, un po' più divertente, un po' più conservando tutto l'umorismo e tutto il divertimento. Se poi ti porti a casa anche il retrogusto di un pensiero, di una riflessione, forse quel film ha fatto meglio il suo mestiere. Parliamo del ruolo invece di Enzo Iannacci, perché anche questo è un altro tabù poco utilizzato e poco frequentato dagli italiani, cioè l'anziano come protagonista positivo, come motore del film. Assolutamente sì, nel senso che lui è, come dire, il virus che fa scatenare tutto. E poi Enzo, trattino Armando, cioè il nome del personaggio, non fa niente di male e non dice neanche cose particolarmente, delle cose di semplice umano, naturale, buonsenso, perché non vuole dimostrare niente. Gli altri invece, come dire, tentano disperatamente di dimostrarsi diversi da ciò che sono. Vedo che tu cerchi chiaramente di comunicare il film come un film che debba anche suscitare una simpatia, un'empatia, ed è giusto perché poi è un film così, tra l'altro, quindi non stiamo inventando niente. Però c'è un altro tema, secondo me, che è rimasto un po' sul sottofondo, non so quanto è solo abbozzato, quanto voleva essere un tema forte, che è anche questa ricerca e questa smitizzazione, fammi dire, in parola grossa, della morte. C'è anche un po' un esorcizzare che, secondo me, questo sì, molto figlio del nostro tempo. Sì, esorcizzare con una pernacchia, però. Perché non si può vivere nella paura dell'invecchiare, non si può vivere con la paura di niente. C'è la vita, ci sono i rapporti umani, quello che resta ad ognuno di noi sono le relazioni, i ricordi, la sensualità, lo stare insieme e quant'altro. Ecco, la commedia, come dire, ci racconta anche questo, che alla fine di questo viaggio tutti questi personaggi saranno cambiati un pochino. Cioè questo vecchio è entrato in questa piccola società, ha unto, ha toccato tutti e tutti sono un po' cambiati. C'è tanta verità mischiata dentro lo stesso, come dire, dentro la stessa pentola col divertimento. Grazie mille, Sergio. Bocca al lupo. Grazie, credo. Ed era Sergio Castellitto alla Rosa Purpura, il nostro incontro al Cinema Anteo, dove appunto il film La Bellezza del Somaro viene proiettato. Bellezza del Somaro che ha anche una distribuzione piuttosto importante in tutta Italia. Allora questa forse è un po' anche la proposta che sottolineiamo di più, anche perché è un film italiano, come dicevamo, piuttosto originale e che in un certo senso marca un po' questo periodo natalizio. Non è certo un tipo di film che di solito si fa uscire a Natale, invece è stato molto bravo Sergio Castellitto a volere questa uscita, perché ci dà un'alternativa alle altre commedie, quelle anche un po' cacciarone, diciamo solite, i panettoni, cosiddetti panettoni di questo periodo. Noi cominciamo a giocare, è arrivato il momento di giocare e siccome ci avviciniamo a Natale anche noi, abbiamo fatto una scelta devastante sotto il profilo economico, lo sto scherzando, perché davvero oggi si gioca con qualcosa di grande grande valore, cioè di molto valore anche economico, sempre nell'ambito ovviamente dei Blu-ray, ma insomma con qualcosa che lascerà gli ascoltatori che indovineranno il sabato e la domenica per primi il nostro quiz un ricordo tangibile, che è qualcosa di più di un regalo di Natale. Allora cominciamo subito con la prima clip. Prenditi il portafogli! Ehi! Il portafogli! Mi vuole a si inchiappare! Aiuto! Che film era? Che film era? Attenzione, perché come avete forse capito non è solo un film, ma insomma, che film era? Da quale film era tratta questa brevissima clip? La Rosa Purpurea @radio24.it, mettete sempre il vostro indirizzo di posta privata, perché se vincete, se siete i più bravi e fortunati e preparati e veloci del sabato e della domenica, noi siamo molto facilitati poi a far andare avanti le spedizioni. Più tardi ci saranno un altro paio di possibilità. E noi andiamo avanti con la terza novità al cinema di questo fine settimana che abbiamo voluto scegliere nel mazzo dei film. Vi ricordo, escono anche, non ne parleremo dettagliatamente, ma escono anche Natale in Sudafrica, che chiaramente parlavamo appunto di cinepanettoni, La banda dei Babbi Natale di Aldo Giovanni e Giacomo, magari avremo tempo di parlare nella prossima puntata che andrà in onda la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, quindi ci sarà tempo, come dire, di fare un po' un ragionamento sul paniere di film natalizi che sono a disposizione. Quindi Il ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo, esce Le cronache di Narnia, un avvio un po' flat, diciamo così, negli Stati Uniti, ma insomma è il terzo capitolo di una saga che forse voleva essere qualcosa di più di quello che è diventato. Insomma, è una settimana molto densa, però noi abbiamo dovuto scegliere, come facciamo sempre, per questioni di tempo e di spazio, abbiamo scelto The Tourist. Abbiamo scelto The Tourist perché è un film di cui si è parlato molto sotto tutti i livelli, anche quello gossiparo, se volete, vista la partecipazione di personaggi come Johnny Depp e Angelina Jolie nel cast, vuoi perché in gran parte è stato girato a Venezia, tra l'altro fra poco sentiremo anche Johnny Depp parlarci dei pro e dei contro di questa sua esperienza italiana. E allora andiamo a sentire le notizie, il racconto e le reazioni del pubblico alla proiezione di The Tourist, la nostra Chiara Pizzimenti. Tutto è cominciato quando ho conosciuto una donna sul treno. Io sono Elise. Io sono Frank. Hai un nome orribile. È l'unico che ho, purtroppo. Possiamo trovartene un altro? Ok. L'incontro che Frank, professore di matematica del Wisconsin in vacanza in Europa, crede casuale, ovviamente non lo è. La bellissima ed elegante fino alla perfezione Elise lo ha scelto. Frank, vieni con me. Elise Ward è suo marito. Sei vorace. Vuoi dire procace? Giusto. Frank, dunque, interpreta il ruolo del fidanzato di Elise, ricercato dalla polizia di mezzo mondo per un furto miliardario e irriconoscibile perché si è fatto più di un ritocco. Avanti, prendetelo. Pronto, mi aiuti? Ci sono due uomini che cercano di sfondare la porta. Che tipo di problema ha con la porta, signore? No, due uomini armati vogliono entrare. Devo andare! Mistero, intrigo, doppio gioco. Il tutto con Venezia sullo sfondo. Un cast di stelle internazionali, Angelina Jolie e Johnny Depp, ma anche Paul Bettany e Timothy Dalton, e di volti nostrani. Raoul Bova, Alessio Boni, Daniele Peccini, Neri Marco Re, Nino Frassica e Christian De Sica. Poteva essere un mix perfetto nelle mani di un regista, Florian Henkel von Donnersmarck, che al primo colpo, con Le vite degli altri, aveva conquistato critica, pubblico e Oscar. Poteva. La magia non è riuscita. The Tourist, remake di un film francese passato nelle mani di altri tre registi e di diversi sceneggiatori prima di finire sul tavolo del tedesco, sembra voler essere insieme una commedia e una spy story, ma risulta convenzionale. Più un panettone vecchia Hollywood con eccesso di sfarzo e musica altisonante che un'opera che ha come modello ideale Caccia al ladro. Si poteva giocare con l'ironia, invece Angelina Jolie sfila più che recitare lungo i canali e Johnny Depp non figura bene in pigiama. Il pubblico in sala apprezza più lo sfondo che il resto. Piacevole, soprattutto l'ambientazione, Venezia è strepitoso, sì. È fatto benino, però è abbastanza scioccarello, non è poi un granché. Cioè un ritorno all'indietro erano più belle quelle di James Bond, un film che non sa di niente. Ma insomma è piaciuto, ma insomma sempre questi sparamenti, queste mafie. C'ha delle inverosimili, ma comunque è divertente. Mi è piaciuto, è troppo costruito. Uno non si immagina il finale. Cioè, non se l'aspettava. Non me l'aspettavo proprio. Poi fatto bene, poi gli artisti sono tutti bravissimi. Sia gli italiani che anche loro due che sono due miti, quindi veramente bello. È stato bello, dai. È stato tipo 007, diciamo, è bello, bello. Venezia è meravigliosa, qua. Una più bella ambientazione di Venezia, ma bella. Molto bello esteticamente, ma abbastanza stupido. Beh, insomma, abbastanza tranciati il commento di quest'ultima ascoltatrice, poi comunque spettatrice in realtà, comunque insomma avete sentito, anche gli spettatori non è che abbiano proprio, si siano strappati i capelli per questo The Tourist. Dicevamo, Johnny Depp, protagonista maschile, che ha raccontato un po' in conferenza stampa come sia stato girare a Venezia, perché chiaramente è una città mitica, ma soprattutto per tutto il mondo ovviamente, ma per gli americani in particolare, e però per uno come Johnny Depp non era facilissimo girare per la città. Sentiamo. There were a couple of distractions here and there only because of Ci sono state un paio di distrazioni qua e là, solo perché Angelina è molto popolare con i paparazzi. Quindi c'era una specie di muro di paparazzi a volte. Ma a parte questo, la città è magica. Era tutta brillante. E la mia esperienza di Venezia al di fuori del lavoro c'è stata tra le 10 di sera e le 2 del mattino, quando le strade erano chiuse, e ho potuto camminare in giro per sperimentare la poesia di Venezia. Si sa, i fantasmi di Venezia. Eh sì, questi vicoli e passaggi bui e meravigliosi. L'ultima scelta della nostra settimana, del nostro weekend al cinema, è The Tourist. Anzi, scusate, The Tourist l'abbiamo già fatto, American Life. Piccolo lapsus, American Life, film che è importante per alcuni motivi. Io partirei dal regista, perché Sam Mendes è un regista di grande talento, vincitore di 5 Oscar con American Beauty, ci ha consegnato un film che io ho trovato davvero un piccolo classico, anche se magari non ha avuto la circolazione che forse meritava, come Revolutionary Road. È insomma un regista di quelli capaci, e in questo film tra l'altro si mette anche molto alla prova, perché viene fuori con una sorta di commedia indipendente, molto indie anche nell'impianto visivo e anche nella scelta degli attori, che sono sostanzialmente poco conosciuti o quasi sconosciuti, almeno dalle nostre parti, per raccontare la storia di una coppia, quella di Bart e Verona, con un bambino in arrivo, lei incinta di 6 mesi, convinta che i genitori di lui, perché quelli di lei non ci sono più, dopo la nascita del bambino faranno di tutto per starci insieme, per dargli una mano, per fargli sentire una famiglia, ma tutto questo non accadrà. Tutto questo non accadrà perché i genitori invece stanno pensando, parlavamo prima di vecchiaia e di mettersi di fronte all'età che avanza con le scelte giuste, beh, loro decidono di andarsene in Europa, ma con delle grasse risate lo annunciano ai ragazzini, ai due sposini, e quindi loro si trovano di fronte a una situazione un po' disarmata. A questo punto decidono a loro volta, Bart e Verona, di intraprendere un viaggio, e il film diventa quasi un road movie, attraverso l'America, anche con punte nel Canada, per cercare qualcuno con il quale condividere questa gioia, la gioia di un bambino che sta arrivando, e anche con il quale appunto avere quel senso di famiglia, di vicinato, di calore umano che stanno cercando. Questo un po' è il plot di questo American Life, che è un film che ci aiuta anche a entrare un po' nei meandri di un'America più periferica e meno conosciuta. Noi cominciamo col sentire una clip e poi tiriamo in ballo Boris Sollazzo. Sentiamo. Siamo due matti. Beh, guardati intorno. Siamo d'accordo sul vivere accanto a una specie di famiglia. Degli amici, insomma. Dei contatti, gente che conosciamo. E allora andiamo a Phoenix a trovare mia sorella. E i tuoi grandi amici? Lily e Lol. E poi a Madison per il tuo colloquio. Il mio che? Dai, il colloquio di lavoro. Il tuo colloquio alla Mutual Choice. Dove ti danno una commissione più alta. Sei stato tu a fissarlo. D'accordo, e poi da Madison torniamo a casa. No, ma l'hai guardato l'itinerario? Te l'ho spillato all'interno della giacca. Vedi? Da Madison andiamo a Montreal. Montreal è il posto giusto se non viviamo a Phoenix. Ok. Montreal. E avete sentito, queste le scelte potenziali, e poi ci saranno scelte invece reali. Ma sentiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, ha fatto centro ancora il nostro Sam Mendes, anche con questo film, come dicevo, molto indie nelle sue, così, nei suoi modi, nelle sue modalità estetiche, nella scelta degli attori e nel raccontare questa America quasi come una serie di istantanee. Ecco, è così, cioè è riuscito nell'intento? Guarda, userei una locuzione non molto elegante, ma ha fatto centro soprattutto, più che ancora, perché a mio parere qui trova una mano felice nella macchina da presa e nel racconto che non aveva avuto del tutto nei precedenti film, forse anche più celebrati. Riesce a trovare un'autoironia che spesso gli era mancata, una visione anche spensierata, un gioco nei con primari meraviglioso, penso a Mackie Gyllenhaal, che è davvero esilarante. Come dici tu, poi è un on the road che mostra l'America e mostra, ora ci vuole, i precari americani, questi due, John Krasinski e Maya Rudolph, facce buffissime, sono personaggi senza arte né parte che cercano il loro posto nella vita. Riesce a farlo con una leggerezza, una simpatia, una delicatezza, una sensibilità e anche un'eleganza che a mio parere del tutto non aveva ancora trovato. Forse questo è il suo miglior film, oserei dire, quindi sono davvero molto soddisfatto. Senti, nei personaggi di contorno, in questi personaggi che loro incontrano in questo loro percorso attraverso l'America, sembra quasi a volte di scorgere dei personaggi che potrebbero essere venuti fuori da loro precedenti film, soprattutto da Revolutionary Road, no? Che era anche un campionario umano di quell'America anni 50. Ecco, sembrano quasi diventati gli sparring partner, questi personaggi, chiaramente nella loro versione attualizzata. Sì, Revolutionary Road per esempio era uno di quei film a cui mi riferivo, uno di quei film in cui lui non era stato del tutto felice e si sfogava, tra virgolette, sfogava il suo talento nei personaggi di contorno. Penso a quel meraviglioso matematico pazzo che si raccontava e che dava forse lo spessore a tutto il film. E qui succede la stessa identica cosa. Qui Mendes prende tutti i marginali, i buffi marginali dei suoi film con cui aveva tappezzato tutta la sua cinematografia e li mette in questo che forse è un on the road addirittura all'interno della sua cinematografia, come se lui volesse rivalutare tutti quei pezzi di film che erano a mio parere i migliori e che invece trascurava quando si prendeva troppo sul serio. E allora, grazie Boris per averci analizzato American Life, che come sempre in originale si intitolava in un'altra maniera, Away We Go, ed è forse un titolo un po' più pregnante rispetto a quello che racconta il film. Qui c'è stata non la traduzione, ma comunque il cambiamento in American Life. Insomma, così vuole la distribuzione italiana. Ciao Boris, a risentirci. A risentirci. E allora, dopo American Life di Sam Mendes, noi giochiamo ancora insieme, ascoltiamo la seconda clip. Un autografo sui nostri forconi e le nostre torce! Mamma mia, avevate un'aria feroce! Sì! La rosa purpura a @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi ci sarà un'altra possibilità. E adesso vogliamo utilizzare questi tre minuti che ci separano dalla viabilità per parlare di film che non si vedono. Chiaramente non è semplice, non è proprio un tema facilmente inquadrabile. Lo facciamo perché è stato dato alle stampe un libro recentemente che si intitola Dispersi, guida ai film che non vi fanno vedere. Noi da queste frequenze, chi ci ascolta spesso lo sa, abbiamo spesso parlato di un problema di distribuzione, cioè quello dell'assenza, dello sgretolamento di un tessuto che era quello delle sale di città, delle sale dei centri cittadini, soprattutto non nelle grandi metropoli, magari dove ancora qualcosa, ma dico qualcosa, resiste, ma soprattutto nei centri medi, dove molto spesso non c'è più neanche un cinema in città. Perché lo facciamo? Perché questi cinema erano la casa di un cinema particolare, di film europei, di film indipendenti, di film anche di grandi registi, di film comunque di qualità. E chiaramente l'avvento del multiplex ha portato necessità di distribuzione di massa che questo tipo di sale non hanno saputo supportare. Però questo ha portato con sé anche la scomparsa di una distribuzione di una serie di film che anni fa, dico 10, 15, 20 sicuramente, per non andare ancora più indietro, si sarebbero sicuramente visti. E allora noi siamo al telefono, in collegamento con Alberto Brumana, che è uno degli autori, dei coautori di questo Dispersi, proprio per farci qualche esempio di questi film. Alberto, innanzitutto ciao, grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea e per avere fatto questa guida di 100 film che non ci hanno fatto vedere, che non sono stati distribuiti in Italia, ma che potrebbero essere lo stesso visti. Assolutamente sì. Intanto ciao Franco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Quello che vogliamo noi è proprio dare una possibilità a questi film di essere visti, perché sono dispersi, ma vogliamo cercare di aiutare a ritrovarli, perché ovviamente non sono arrivati nei cinema italiano, ma c'è assolutamente la possibilità di recuperare questi film e di vederli con il DVD di importazione o assolutamente in diversi modi. Ci sono tantissimi esempi, noi ne abbiamo scelti 100, te ne faccio magari qualcuno così, una breve carrellata. Tra l'altro American Life, il film di cui parlavate prima, ha rischiato seriamente di essere un film disperso perché è stato distribuito in America oltre un anno e mezzo fa ed è arrivato in Italia soltanto oggi. Sempre in tema di American, ti parlerei magari di American Splendor, che è un film. Grande film, davvero un grande film, che tra l'altro ha lanciato, se vogliamo, anche un po' a livello internazionale la carriera di Paul Giamatti. Assolutamente sì, e Paul Giamatti in questo film interpreta Harvey Pekar, che è un autore di fumetti molto conosciuto soprattutto a livello underground, e questo film è tratto da un suo fumetto autobiografico, quindi racconta la storia di questo scrittore di fumetti che è un semplice impiegato che cerca di trasporre la sua vita in un fumetto e ci riesce, ed è quindi raccontato in una maniera molto quasi surreale, grottesca, perché appunto è un uomo normale che racconta la sua vita in forma di fumetto. Ecco Alberto, allora ascoltiamo un attimo una piccola clip di American Splendor. My name is Harvey Pekar. Oh, that's an unusual name, Harvey Pekar. 1960 was the year I got my first apartment and my first phone book. Now imagine my surprise when I looked up my name and saw that in addition to me, another Harvey Pekar was listed. Ovviamente è una clip in inglese perché sono film non distribuiti e quindi non doppiati, anche se una banda di maniaci, potremmo definirli così, fa di tutto per rendere disponibili poi i sottotitoli in rete, quindi non perdetevi d'animo, con Dispersi riuscirete a farvi un po' da guida. Alberto, veramente 20 secondi per farci altri due titoli telegrafici. Sì, beh, Jerry è probabilmente il titolo da cui è quello da cui noi siamo partiti per tutto questo discorso di Dispersi, perché è un film di Gus Van Sant con Matt Damon e Casey Affleck che non è mai uscito nei cinema italiani e che quindi forse è il caso di Disperso più clamoroso. E poi ad esempio anche un Little Children, che invece è un po' più recente, del 2006, che è di Todd Field, che è insomma un regista di In the Bedroom, quindi uno dei più premiati degli ultimi anni, con Kate Winslet e Jennifer Connelly. Anche questo purtroppo non è mai stato visto in Italia. E grazie allora Alberto Brumana, Dispersi, edito da Falsopiano. Sono film poi che si possono recuperare appunto in DVD di importazione. Questa volta noi andiamo a vedere invece che cosa c'è nelle videoteche italiane e cosa c'è nei palinsesti molto ricchi, con l'avvento del digitale terrestre, di canali gratuiti sui quali vedere film e riscoprire, recuperare film d'epoca, belli, persi, svisti e magari anche dispersi, chi lo sa. Noi lo facciamo come sempre con gli amici della redazione del settimanale Film TV e abbiamo in collegamento Sara Sagrati. Ciao Sara, allora raccontaci un po' qual è la prima scelta di oggi. Grazie Franco e buon Natale dalla redazione di Film TV. Nelle proposte delle nostre televisioni per le feste spicca sicuramente Nightmare Before Christmas, che andrà in onda giovedì 23 nella notte alle 3.55 su Rai 1. Una delle favole nere forse più riuscite nella carriera di Tim Burton, anche se la regia in effetti è affidata a Harry Selick, è il fantastico mondo delle feste e di Jack Skeleton, il re della città di Halloween, che decide di cambiare vita e di impossessarsi del Natale. Rapisce Santa Claus e nel delizioso passo 1 della pellicola ce ne mostra sia il lato divertente umano ma anche quello più oscuro. Davvero uno straordinario musical, Nightmare Before Christmas, diventato un classico. Giovedì 23 dicembre, Rai 1 in piena notte, ma insomma, se non l'avete mai visto, registrate alle 3.55. Seconda scelta. Sì Franco, continuiamo con un Natale ben diverso, quello che forse secondo noi è uno dei titoli più interessanti proprio sul Natale, che è Gremlins e il suo seguito Gremlins 2 La Nuova Stirpe. Sembrerà strano, ma l'ambientazione natalizia di entrambi i film è veramente divertente e funziona alla grande ancora oggi dopo tanti anni. E Italia 1 ce li propone entrambi, giovedì 23 dicembre alle 10.20 il primo capitolo e venerdì 24 dicembre alle 10.20 sempre il secondo. Una bella occasione per divertirsi ridendo sulle feste. Eh sì, abbiamo parlato recentemente del nuovo film di Joe Dante, The Hole, Gremlins, giovedì 23 dicembre, Italia 1 alle 10.20 del mattino e il 24, il giorno dopo, sempre alle 10.20 del mattino, sempre su Italia 1, allora Gremlins 2, La Nuova Stirpe. Grazie Sara Sagrati. Ciao Franco, buon Natale sia a te che a tutti i tuoi ascoltatori e ci risentiamo tra 7 giorni. E allora noi andiamo a giocare, terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. Festa, festa, festa, la popò è fatta, un amico sempre c'è, se frigni guai a te. Festa, festa, super, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, assolutamente pazzesco. La Rosa Purpurea @radio24.it. Abbiamo detto quale film di quale saga, ovviamente a questo punto saga è una parola che possiamo usare per vincere un regalo davvero fuori dal normale. La Rosa Purpurea @radio24.it. il più bravo e veloce del sabato e della domenica portano a casa questo straordinario premio che sveleremo come sempre settimana prossima, così come adesso sveliamo il game della settimana scorsa. È stata anticipata oggi. Ma avevano detto che era domani. È successo qualcosa. È fra 20 minuti. Mio padre sta passando a prendermi. Era Karate Kid, la leggenda continua, il film, il remake uscito proprio quest'anno nelle sale cinematografiche. Era un film non facilissimo da indovinare e in effetti non molti hanno indovinato, ma i più bravi, i più veloci sono stati Sebastiano Fuccio di Palestrina, provincia di Roma, e Luca Gaballo di Pioltello, provincia di Milano, che riceveranno il Blu-ray di questo film. Karate Kid, la leggenda continua, che il nostro Claudio Poffi ci racconta così. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, da Sony Pictures Home Entertainment è sicuramente un risultato tecnico che stupisce, soprattutto per la resa video. Ci sono le due edizioni, DVD e Blu-ray, sicuramente eccellente la versione alta definizione, che ha questa doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione in italiano e in inglese. La pubblicazione Blu-ray offre questo box in metallo da collezione, ci sono numerosi focus sulla lavorazione, ampi retroscena della preparazione atletica del giovane attore Jaden Smith, gli insegnamenti di Jackie Chan, vero maestro di arti marziali e uno dei più grandi cascatori di tutti i tempi. E questo per quel che concerne allora Karate Kid, la leggenda continua. Noi invece andiamo alle nostre recensioni e cominciamo con un film che ha contrassegnato l'epoca cinematografica recente come Magnolia. Ma tu continui a fare i compiti? Molto meno di una volta. Da quando faccio televisione ho smesso di andare a scuola, ho tante di quelle audizioni. Io non frequento regolarmente. Ah no, e che fai? Lasciano che gestisca io le ore di studio e quelle di lettura in biblioteca. Mica male. Ce l'hai già un agente, Stanley? No. Beh, dovresti trovartelo, dobbiamo sfruttare al massimo questa occasione. E come? Sei proprio tonto, con la pubblicità e merda del genere. Richard! Buona a non rompere. A Los Angeles, Earl e Jimmy sono due uomini di successo, divorati dalla malattia, ma ancor più sofferenti per aver commesso un devastante errore nella propria vita, cui vorrebbero tanto riparare. All'interno di un film corale, il regista del Petroliere avvicenda numerosi personaggi collaterali, molti dei quali in crisi per le colpe di un passato impossibile da dimenticare. Una punizione divina sotto forma di pioggia di rane sarà la nemesi che placherà gli animi. Da Medusa Film Home Entertainment arriva finalmente Magnolia in alta definizione, di eccellente qualità, doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione italiano e inglese. Gli extra sono gli stessi dell'edizione DVD, tra i quali segnalo sicuramente questo bellissimo video diario della realizzazione del film, in cui si segue il regista a partire dalla genesi. E adesso un film che esce direttamente in DVD, una commedia grottesca, si intitola Defendor. Rilassati, bello. Non posso, ci sono delle persone lì fuori che hanno bisogno di me. Chi ha bisogno di te? Di te invece? L'ho chiesto prima io. Sto cercando una persona. Sì? Chi? Capitan Industria. E chi è? È un genio del male. Lui fa lo spacciatore. Allora è probabile che io lo conosca. Radovan? Radovan? Sì, è un vero stronzo quello. Arthur Poppington è un uomo qualunque, qualche piccolo disturbo mentale, una vita vissuta pressoché in solitudine. Appassionato di fumetti, diventa paladino della giustizia, anche se di superpoteri proprio non vi è l'ombra. Senza rendersi conto dei pericoli che corre, armato di fionda, biglie, vespe incazzate, indossando una tuta nera su cui impressa una D col nastro argentato, Defendor scende in campo affrontando i cattivi. Da scoprire assolutamente in un video questa tragicommedia di notevole spessore umano con un incredibile Woody Harrelson. Arriva da Sony Pictures Home Entertainment questo DVD di ottima qualità. C'è una doppia traccia Dolby Digital in italiano e inglese, molto interessante. Tra gli extra su tutti segnalo il commento del regista e sceneggiatore Peter Stebbings. Grazie Claudio Poffi, il tempo è finito. Un saluto a tutti, appuntamento alla prossima settimana, la puntata natalizia della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.